Mercoledì 16 settembre, le 8, 18 minuti e 26 secondi. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati alla terza parte di 24 Mattino. Al microfono sempre Simone Spezia. E continuate, se volete, a mandare i vostri WhatsApp audio, le vostre voci su cosa fareste con i soldi del Recovery Fund, visto che i progetti sono così dispersi, come abbiamo raccontato. E a me resta impressa questo foreste resilienti urbane per i cittadini, 2 miliardi e mezzo, proposta del Ministero dell'Ambiente. O anche l'800 24 00 24. Alle 8.35 ospiteremo Luigi Di Maio, ministro degli esteri del Movimento 5 Stelle. Sarà un'intervista incentrata molto sulla politica interna, e però parleremo anche ovviamente della vicenda dei pescatori che sono stati sequestrati al generale Haftar. Ne abbiamo parlato lungamente nei giorni scorsi con il nostro Paolo Mieli, che ritroviamo come sempre a quest'ora. Paolo, buongiorno, eccoci. Buongiorno, eccoci. Ci siamo. Inizierei oggi, Paolo, dalla politica e dal presidente del Consiglio Conte. La frase che, diciamo, prima viene anche sottolineata da Lina Palmerini nel suo pezzo quotidiano sul Sole 24 Ore, Politica 2.0. La frase è questa: se perderemo la sfida del Recovery Fund, avete il diritto di mandarci a casa, ha detto ieri Conte ad alcuni studenti a Norcia. Che dici su questo, Paolo? È una strana frase, ha fatto bene a colpirti, perché il diritto di mandarla a casa c'è già adesso, per questo, cioè 20 settembre si vota. Se il voto fosse a valanga in qualsiasi forma contro il governo, è ovvio che non c'è un automatismo fra il voto delle regioni e mandarla a casa, però è curioso, perché queste frasi, come spesso quelle dei politici, contengono dei significati nascosti, e il principale è questo: decodificata. Guardate, abbiamo già fatto accordi per in qualsiasi modo vadano le elezioni, noi restiamo qui, restiamo al comando. E siccome i fondi del Recovery Fund e l'amministrazione dei fondi del Recovery Fund sarà una cosa che durerà fino alla fine del 21, anzi inizierà a metà del 21 e durerà fino alla fine, probabilmente anche nel 22, significa, è una frase di sicurezza quella di Conte. Dice: guardate, vuol io dire, rimango vuol qua dire per duriamo sempre. Duriamo vuol dire, no? Sì, noi rimaniamo tutta la legislatura. Alla fine, quando voterete, alla fine di questo lunghissimo tragitto, avete il diritto di mandarci a casa, e noi lo ringraziamo per darci questo diritto, perché mi sembra evidente che se buttano dalla finestra 209 miliardi, anzi 300 contati in maniera allargata, con alcuni progetti dissennati che sono quelli di cui tu parlavi prima, grazie. Comunque, tutte le notizie sui giornali confermano questa forza che mostra di avere Conte, nel senso che mi sembra che stiano escludendo anche il rimpasto, magari inseriranno qualche ministro di peso, però anche quel dibattito è noiosissimo, rimpasto sì, rimpasto no. Oggi Repubblica, ad esempio, dice che hanno fatto un piano Conte e PD per blindare il governo, quale che sia il risultato, e soprattutto si vota in 7 regioni, sì. Ma si sono riusciti, la propaganda favorevole a questa maggioranza, a lanciare due concetti. Uno, che c'è una sola regione che, se si vince o si perde, è decisiva, che è la Toscana. Le altre, più o meno, chi se ne importa di come va a finire. Diamo per scontato che possano finire tutte in mano alla destra, sì. E quindi la Toscana può fare la differenza. Occhio anche alla perché Toscana. Paolo, anche perché in Toscana c'è una candidata della Lega, nelle altre regioni, a e parte infatti, il Veneto, non è così, no? Sì. E infatti il secondo messaggio subliminale, per quello che riguarda il generale, appunto, la candidata leghista, la Ceccardi, in Toscana, sorvegliate come va la cosa. E per il resto, guardate come sono i rapporti di forza fra Zaia e la lista della Lega in Veneto, perché può darsi che la lista di Zaia prenda più voti, e in quel caso Se perde la Toscana e la lista di Zaia ha più voti, forse, forse, sottolineo, per Salvini è iniziato il declino. Sì. Oggi i giornali sono un po' statici, ma io lo dico e lo dirò tutti i giorni, questo genere di inchieste non decolla sulla stampa finché non arrivano le intercettazioni, sì, ambientali o telefoniche. Fino a quel momento, a seguire i nomi di Piripacchi e Piripicchio, che forse, sì, aprirono un conto alle Bahamas, i lettori normali non si orientano. Lo comprendono, lo compreso poco, sì, certamente. Poi potremo discutere all'infinito. Sì, prego, prego, vai. Sì. Goffredo Bettini sul Fatto dice che c'è una congiura dei poteri forti che lui però definisce anche un po' sbandati, contro il governo, ma fa spallucce. Quindi mi sembra un classico, è l'evocazione, l'evocazione dei poteri forti, Paolo, è un, direi ormai uno standard. Volevo chiederti... Cominciò 25 anni fa Tattarella, che era un ministro di Alleanza Nazionale, ed è finito adesso con Bettini, ma durante questi 25 anni non c'è stata elezione in cui non siano stati invocati i poteri forti, che poi sai chi sarebbero questi poteri forti? Chi sono? Io e te. Cioè i grandi, sì, giornaloni, certo. Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Repubblica, sì, sì, sì. Questi sono i grandi. Nessuno mi aveva mai dato del potere forte. Ascolta una cosa, Paolo, ma l'hai visto ieri Carta Bianca, il programma televisivo, dico, sei riuscito a vederlo? Perché io volevo fartelo sentire stamattina. C'è, hanno ingaggiato Enrico Lucci, che ieri è andato da Zingaretti. Sentiamo un passaggio, Peter, va. C'hai paura di perdere la Toscana? Mettiamo che il PD perda, ti dimetti? Ma non perdiamo. Metti che se perde la Puglia e a daresti una schicchera sulle orecchie a Di Maio? No, una schicchera! No, oh, ma consiglio. Sei troppo buono! No, lo inviterei a cena. E gli metti il cianuro nella minestra. No, no. Non è male, eh? Non è male l'intervista di Lucci a Zingaretti, che dici? Povero Zingaretti e poveracci tutti quelli che finiranno nelle mani di Lucci, perché ridono come ebeti, non voglio offendere Zingaretti, però ridono, balbettano, non sanno cosa dire, non fanno una grandissima intanto lui mena. Paolo, venendo a cose più serie, anche dei retroscena politici, alcuni giornali ci aprono, addirittura c'è una riflessione in corso sull'omicidio avvenuto a Como di Don Roberto Malgesini, 50 anni, si prendeva cura dei senza dimora a Como e da un senza dimora di origine tunisina è stato ucciso a coltellate. E così ieri il vescovo di Como, Cantoni, sentiamolo, va. Era incurante di se stesso, perciò a rischio anche della propria vita, portava la colazione ai poveri anche durante il momento tragico del lockdown. Era un mio figlio, ci vedevamo spesso e avevamo anche una grande confidenza. Segnalava un po' il suo ministero, facendo emergere però le realtà più belle. Svolgeva questo ministero con gioia, era la sua vocazione, direi una vocazione nella vocazione. E qua, Paolo, si scontrano due visioni, già lo dicevo in rassegna stampa. Da una parte chi evoca il tema del clima d'odio e di violenza che genera tutto questo, riferendosi sotto traccia alla destra, al centrodestra, alla Lega, a Fratelli d'Italia, e dall'altra parte che dice invece no, vedete, è colpa dell'immigrazione, perché questo senza tetto era di origine tunisina, sono 30 anni che era qua in Italia e era stato, aveva ricevuto i decreti di espulsione ma non era mai stato espulso. Vedi, quello che mi colpisce oggi sono i toni relativamente temperati con cui queste due posizioni che si confrontano da anni vengono allo scoperto, secondo me per due motivi. Uno, per rispetto a alla particolarità di questo caso, nel senso che Don Roberto, definito dai giornali il prete degli ultimi, era veramente una figura di un santo, o quasi di un santo, e che il tunisino che lo ha accoltellato era chiaramente, o almeno così sembra, leggendo i giornali, uno spostato, per cui anche i giornali, per esempio, di destra, che avrebbero l'opportunità di dire vedete questi immigrati, questi sono pericolosissimi, Oggi sì, ovviamente tutti i giornali danno grande risalto. Un po' lo fanno, però non così, dici... Però guarda, sono sicuro, adesso aspettiamo domenica, ma sono sicuro che questa campagna elettorale passerà alla storia per essere stata una campagna elettorale temperata rispetto alla posta in gioco, che può essere anche quella di dare una spallata al governo, di mandarlo a casa o comunque di renderlo debolissimo. La cosa che mi ha sorpreso positivamente, lo sottolineo positivamente, è che i toni non sono stati esacerbati, non c'è stata nessun episodio fin qui relativo alla campagna elettorale gravissimo. Sì, ci sono state quelle contestazioni a Salvini di cui abbiamo parlato ieri, ma tutto sommato niente in confronto a tutte le altre campagne elettorali che l'hanno preceduta. Vorrei chiudere a proposito di campagna elettorale, adesso poi chiusa la nostra, inizieremo un po' più densamente a parlare di quella per le presidenziali americane. Campagna per presidenziali americane che si arricchisce di un colpaccio di Trump, che è quello di aver portato allo stesso tavolo Israele, il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti, facendogli firmare un accordo con il quale Emirati e Bahrain riconoscono Israele, che è un fatto storico, e si consolida un asse anti-iraniano. Ieri c'è stata la firma di questo accordo. Come lo valuti, Paolo? Io lo valuto, visto che il manifesto dice bye bye Palestina, trascurano gli interessi dei palestinesi, io ho un'opinione diversa, nel senso che mi sembra che questi accordi fra Israele e i paesi sunniti, per il momento non c'è l'Arabia Saudita, ma ricordiamoci che questi accordi sono stati preceduti da accordi con la Giordania, con l'Egitto, con gli Emirati Arabi Uniti. A questo punto comincia a esserci un consistente gruppo di paesi arabi sunniti, anti-iraniani, e lo sottolineo anch'io, che riconoscono Israele, hanno normali relazioni diplomatiche e persone viaggiano nell'uno e nell'altro paese. È fatto sulla pelle dei palestinesi? Io non credo, io penso che un accordo per la nascita di uno Stato palestinese, qualsiasi forma esso prenderà, nasce proprio dal riconoscimento di Israele e dal riconoscimento reciproco fra Israele e i paesi arabi, che è una garanzia per Israele, nel senso che se Israele si sente garantita da paesi che non hanno più come obiettivo quello di distruggerla, in fondo può essere o può cominciare ad essere più tranquillo e più disponibile anche a uno Stato palestinese. Guarda, magari è un'illusione, mi diranno gli ascoltatori, ma ancora con questa storia, ma figurati, non lo sarà mai. Però, siccome sono oltre 50 anni che si va avanti per l'altra strada, inaugurarne una un po' diversa non è male. Comunque, potrebbe essere salutare. Un grande successo per Trump e chi ha anche la politica internazionale al primo posto della propria agenda. E guarda che molti americani ce l'hanno, può considerare questo un risultato, perché i suoi predecessori i risultati di questo tipo non ne avevano. Grazie Paolo Mieli, ci risentiamo domani per il nostro consueto appuntamento subito dopo il GR delle 8. Paolo, buona giornata. Grazie anche a te. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo con Luigi Di Maio. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Alle 8:35 minuti e 30 secondi, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, per gli SMS se volete intervenire. Ci siamo per parlare di tutti gli argomenti che volete, dal Recovery Fund e non solo, tutti i movimenti politici che sono in corso e dei quali abbiamo parlato fino adesso, ammesso che a qualcuno interessi, se è vero come è vero quello che ci racconta, se è vero come dice il sondaggio di Alessandra Ghisleri oggi sulla Stampa, che la principale preoccupazione degli italiani al momento è il lavoro, e sono il lavoro e l'occupazione, la crescita economica, e con questo arriviamo a un 40% complessivo, che diventa un 55% se ci metti anche la riforma fiscale, e che arriva fino a un 70% circa se ci metti anche la sanità. La sanità. Però è vero anche che queste elezioni, se portano dei cambiamenti all'interno della maggioranza, poi hanno anche un impatto evidentemente sul paese e su quello che succederà, così come lo ha ovviamente il referendum costituzionale. Di questo e di altro parliamo adesso col ministro degli esteri Luigi Di Maio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, Di Maio. Buongiorno. Bentornato. Buongiorno. Ai nostri microfoni. Faccio partire Buongiorno. Proprio dal referendum. La posizione del Movimento 5 Stelle è scontata, siete voi che l'avete proposto, il taglio dei parlamentari, e quindi questo è. Se dovesse vincere il no, succederebbe qualcosa all'esecutivo, Di Maio? Ma io sto pensando ovviamente al sì, però mi permette di dire una cosa: il taglio dei parlamentari è stato votato da tutte le forze politiche alla Camera, Salvini l'ha votato e dice di votare sì, la Meloni dice di votare sì, Berlusconi ha votato sì con Forza Italia, il PD ha votato sì e dice di votare sì, anche Italia Viva dice, ha votato sì, e per quanto ci riguarda il Movimento 5 Stelle ha votato sì e chiede di votare sì al referendum. Del referendum non ce n'era bisogno, l'hanno detto 70 senatori, però adesso dobbiamo completare l'opera, perché dobbiamo tagliare 345 parlamentari con un sì domenica nell'urna, e quando lunedì ci sarà lo spoglio avremo 345 parlamentari in meno e l'Italia passerà da 945, quindi quasi 1000, a 600, che è la media europea, perché la Germania ne ha 700 ma ha 20 milioni di abitanti in più, la Francia 600, l'Inghilterra 650. Credo che sia un grande passo per la modernizzazione del paese, e gli italiani domenica o lunedì andando a votare, votando sì, finalmente fanno fare un passo verso il futuro all'Italia. Molti obiettano, Di Maio, che in realtà la cosa migliore sarebbe stato mettere fine al bicameralismo perfetto, non tagliare i parlamentari ma mettere fine al bicameralismo perfetto, e quindi eliminare questo ruolo del Senato o ridurre fortemente questo ruolo del Senato, limitarlo per esempio ad alcune decisioni strategiche come per esempio la modifica della Costituzione. Guardi, tutto si può fare, però io mi sono anche un po' stancato dei penalti. Cioè ogni volta che stiamo facendo qualcosa in questo paese c'è qualcuno che dice ma ci vorrebbe ben altro. Discutiamo di tutte le altre riforme, anche perché il sì di domenica è un primo passo. Vabbè, però, mi scusi Di Maio, si faccia obiettare questo, non sto esprimendo una posizione su questo, però dico, dato che è una modifica costituzionale, non è che possiamo parlare di benaltristi, uno ha una posizione che è legittima e che la esprime ed è diversa dalla sua, no? Però le pare, ma assolutamente, però il tema è molto semplice. Io in questi giorni, dopo che per anni ho visto nei programmi di centrodestra e centrosinistra il taglio dei parlamentari, in questi giorni sto vedendo che tutti cominciano a dire ma servirebbe il bicameralismo o servirebbe tagliare gli stipendi dei parlamentari. Adesso noi abbiamo questo, il taglio dei parlamentari, che significa portarlo a livello europeo. Poi se vogliamo tagliare gli stipendi dei parlamentari lunedì, noi ci siamo, sono 8 anni che tagliamo lo stipendio dei parlamentari del Movimento senza legge. Se vogliamo discutere di nuove riforme costituzionali, noi ci siamo, ma per fare questa ci sono voluti 2 anni, 4 voti in Parlamento, e poi una mattina 70 senatori, per paura di perdere la poltrona, hanno chiesto di indire questo referendum. Adesso io chiedo agli italiani di votare sì e risparmieremo anche dei soldi, ma il tema non è il risparmio in sé, il tema è che finalmente lo portiamo per numero di parlamentari ai livelli europei. Questo numero 945 è stato ideato dopo il fascismo, da allora sono nati i consigli regionali, comunali, municipali, metropolitani, abbiamo tutte le rappresentanze di europarlamentari, adesso riportiamola ai numeri occidentali questo Parlamento e non ai numeri dell'est del mondo. Come gli ascoltatori lo sanno, però lo ribadisco, ovviamente daremo voce nelle prossime ore anche alle ragioni del no, come è naturale. Non mi ha risposto alla prima domanda, Di Maio, sulle conseguenze, se ci saranno, nel caso vincesse il no, se ci saranno delle conseguenze sull'esecutivo, sulla maggioranza. Io, oltre che essere ottimista, sono anche scaramantico, quindi io del no non parlo, sto lavorando su addirittura. Sono molto convinto del fatto che ce la possiamo fare e che gli italiani andranno a votare, perché poi tra l'altro questo non è un referendum del Movimento 5 Stelle, era nei programmi di tutte le forze politiche. E se le regionali dovessero finire con un cappotto del centrodestra, là si cambia qualcosa? Io lo escludo, però in generale posso dirle che anche l'opposizione in questo momento dice che non avrà effetti sul governo il risultato delle regionali. Lo dice Salvini, lo dice Berlusconi, lo diciamo noi di maggioranza. Ciò che dobbiamo però tenere presente è che le regionali sono importanti per una ragione. Il 95% del bilancio di una regione è sanità. I cittadini, quando andranno a votare domenica e lunedì per le regionali, stanno decidendo a chi mettere tra le mani le chiavi dei propri ospedali. In aggiunta, i presidenti di regione saranno protagonisti della spesa dei 200 miliardi di euro di Recovery Fund, che sono i soldi della ricostruzione dell'Italia, tra virgolette, dopo la crisi pandemica e la crisi economica scatenata dalla pandemia. Il negoziato europeo che abbiamo vinto come Italia, abbiamo portato a casa 209 miliardi di euro, adesso si devono spendere bene. Eleggere un presidente di regione significa anche mettergli tra le mani una parte di quei 209 miliardi di euro. Sì. Subisce il fascino dell'idea di rimpasto, Di Maio, lei? Non mi affascina questa parola, come non affascina i cittadini. I cittadini non vogliono un rimpasto, vogliono il lavoro, vogliono meno tasse e vogliono le imprese sostenute dallo Stato per riuscire a competere a livello internazionale. E noi cercheremo di dargli questo utilizzando dei fondi che nessuno ha mai avuto tra le mani, come quelli del Recovery Fund, che sono, come ho detto, oltre 200 miliardi. Sì, però il lavoro lo fa la squadra, e quindi è anche giusto ragionare sulla squadra. Se ci sono elementi che non funzionano, magari si possono cambiare. Dopo le elezioni è un'idea che le sembra possibile. Io ciò che posso dirle su questo è che tutto un mondo che lavora con un ministro, gli stakeholder, tutto un mondo di persone che fanno riferimento a un ministero, dall'oggi al domani, in un anno, cambiano ancora una volta il ministro, sia a livello estero sia a livello italiano, significa ricominciare molto spesso da capo, e questo non è funzionale a quello che stiamo facendo. Poi ovviamente ciò che dobbiamo sempre tenere presente è la volontà degli italiani, e gli italiani andranno a votare per le regionali, come per alcuni comuni, come per il referendum, e lunedì vedremo quale sarà da un punto di vista regionale, comunale, ciò che avranno deciso per i loro amministratori, altrimenti qui in Italia si vota ogni 5 mesi, ogni 5 mesi cambiamo un governo. Quindi mi sembra di capire che anche sulla base delle regionali si vedrà che cosa succede, perché dipende anche dagli equilibri interni al partito, all'altro partito di maggioranza, il Partito Democratico, sul quale lei ovviamente non ha... E io non mi permetto di commentare le questioni in caso di altri, ovvio, anche perché ne abbiamo già abbastanza da noi. Esatto, proprio questo è il tema. Che cosa succede da voi? Continuiamo a leggere di redderazione in arrivo all'interno del Movimento 5 Stelle, di scontri con Casaleggio, posto che appunto sono anche questioni, se vogliamo, retroscena, che in parte lasciano il tempo che trovano, però qualche tensione è percepibile all'interno del suo movimento, del suo partito, Di Maio. Io sono ovviamente 10 anni che sento sempre parlare del redderazione nel movimento, che poi non arriva mai. Semplicemente questo è un movimento che ha tante anime, è diverso al suo interno, ha tante discussioni in corso. Ciò che posso dirle è che noi siamo una forza di maggioranza relativa del governo. Il governo che governa la settima potenza mondiale, che è l'Italia, il movimento deve essere forte. Per essere forte deve convocare subito dopo queste elezioni gli stati generali, lavorare ad una leadership che sia in grado appunto di essere legittimata e forte nelle scelte di governo e non che si prendono. Questo lo dobbiamo al Paese, perché qui abbiamo... Una leadership, Di Maio, o una gestione collegiale? Leadership non vuol dire necessariamente leader, la leadership è anche un organo collegiale che è in grado di guidare il movimento. Questo poi lo decideremo insieme, perché poi immagino che già i cittadini stiano venendo le bolle. Sì, perché ha perfettamente ragione lei. Basta. Andiamo sul recovery fund, allora. Ha ragione. E quando uno ha ragione. Andiamo sul recovery fund, su questi 209 miliardi di euro, che in parte, come ben sappiamo, sono debito e in parte sono soldi a fondo perduto. Vorrei partire però non dall'altro strumento, quello del MES, perché come sappiamo i soldi del recovery non arriveranno prima dell'anno prossimo e forse qualcosa da mettere a posto subito c'è. E su questo fronte il Partito Democratico insiste, questi soldi vanno presi, convinceremo il Movimento 5 Stelle e lo faremo, e dopo le elezioni regionali finalmente si potrà ragionare, perché non ci sarà più un appuntamento elettorale sul quale, no, che fa da intermezzo. Potreste cambiare idea oppure no, Di Maio? Io penso che il Movimento 5 Stelle abbia dimostrato la massima responsabilità quando ce n'era bisogno. Però sul tema MES o non MES, noi abbiamo sempre detto puntiamo sul recovery fund, perché ci sono 209 miliardi di euro. Qualcuno dice ma arriveranno nel 2021, ma infatti noi adesso stiamo scrivendo la legge di bilancio per il 2021, iniziata la sessione di bilancio, cioè abbiamo 209 miliardi di euro, li dobbiamo investire con dei progetti, perché sennò l'Europa non ce li dà, quindi dobbiamo fare i progetti per la digitalizzazione del paese, per la conversione ambientale, per le imprese che possono dare lavoro. Beh, e noi questo è il lavoro che stiamo facendo, in maniera, grazie anche al coordinamento ottimo del ministro Amendola, procederei in questa direzione. Poi sì, ogni volta che si mette in mezzo il discorso invece del MES è anche un'occasione per dividere la maggioranza, e credo che nessuno ne abbia interesse a questo, quindi lavoriamo. Beh, però, Di Maio siete effettivamente divisi su questo, perché ieri Zingaretti è tornato a ribadirlo, non è... E io quello che posso dire è che più se ne parla, più accentuiamo una divisione, non ha senso per me ha senso che adesso abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, siamo il paese che prende più soldi dall'Europa per questa crisi, più soldi di tutti gli altri paesi europei, spendiamoli bene e otteniamo i risultati che serve. Abbiamo ancora due minuti con lei, Di Maio, perché so che poi ha un impegno, ministro, e se ne deve andare, e la domanda a questo punto è una domanda che ha a che fare con un dossier estero, che è quello che è successo il 1 settembre al largo di Bengasi. 18 pescatori siciliani che sono stati arrestati, catturati dal generale Haftar, il quale chiede in cambio la liberazione di 4 persone condannate in Italia per reati di immigrazione a 30 anni, perché l'hanno commessi, così hanno accettato i tribunali italiani, con delle violenze addirittura, i quali sostengono di essere calciatori della nazionale libica, o almeno uno di questi lo sostiene. Che cosa avete, se avete replicato al generale Haftar, come vi state muovendo? Ieri mattina ho avuto una conference call proprio con il sindaco di Mazara del Vallo, con le famiglie dei pescatori che sono stati che sono detenuti in questo momento in stato di fermo, sono in stato di fermo in Libia, e con gli armatori. Quello che gli ho detto è che noi adesso stiamo lavorando come governo per sentire tutti gli attori internazionali che hanno influenza su Haftar e su quella parte libica, per riuscire ad ottenere il rilascio. Non sono in prigione, sono in stato di fermo, quindi queste persone non sono a contatto con gli altri detenuti, e ci sinceriamo ogni giorno del loro stato di salute, del loro buon stato di salute. Presto convocheremo un vertice di governo su questo tema, in modo tale da poter affrontare ancora meglio questo tema del rilascio. Non accettiamo ricatti, voglio dirlo chiaramente, l'Italia non accetta nessun ricatto dei propri connazionali, quei connazionali devono tornare a casa, e ho detto a tutti, e su questo ringrazio il sindaco, tutte le istituzioni locali, che dobbiamo essere pienamente coordinati, perché questo lavoro va fatto con molta attenzione. Io in questi giorni ho sentito sia il ministro degli Emirati Arabi sia il ministro russo, che hanno una loro capacità di influenza su quella parte libica, e stiamo lavorando anche con un basso profilo per ottenere risultati. Abbiamo ovviamente molti ascoltatori che ci chiedono di farle domande su altri dossier esteri. Adesso ci deve lasciare, però, Ministro, ci risentiamo con più calma, magari dopo le elezioni regionali, e facciamo una bella chiacchierata più sui temi afferenti il suo ministero, eh? Ci sta? Volentieri, volentieri, domenica votiamo sì al referendum e poi da lunedì ci risentiamo per gli altri dossier, va bene? Grazie, grazie Luigi grazie. Di Maio, ministro degli esteri, buona giornata, buon lavoro. Manuela da Milano, sentiamo qualche ascoltatore, va Manuela, buongiorno, eccoci. Sì, buongiorno Spezia, volevo chiedere lumi a lei che rappresenta il meglio del cervello di questo paese, come mai tutte le volte in cui dei cittadini italiani aggrediscono e in alcuni casi uccidono delle persone che siano immigrate, regolari, irregolari, naturalizzate, di colore, non importa, si urla al fascismo, e quando avviene il contrario, cioè abbiamo un immigrato irregolare, musulmano per giunta, che uccide un prete bianco, cattolico, tutti minimizzano, nessuno urla la xenofobia. Manuela, nessuno urla il razzismo, nessuno urla la cattolicofobia, nessuno urla all'odio contro gli italiani, all'odio contro i cristiani, ma si tratta semplicemente di uno spostato. Io vorrei capire. Manuela, glielo spiego, nel senso che questo ce l'ho abbastanza chiaro, anche perché se vuole, Manuela, è il tema che abbiamo toccato ieri parlando della legge sull'omotransfobia. Ed è questo. Quando delle persone uccidono un ragazzo nero o aggrediscono una persona nera in quanto nero, quello è razzismo, perché lo fanno in quanto questa persona è straniera o è nera. Nell'altro caso il prete, il parroco di Como non è stato ucciso in quanto cattolico, in quanto prete o in quanto bianco, ma è stato ucciso in un momento di follia. È esattamente questa la differenza. Sergio da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno Tospezia, io volevo intervenire riguardo una notizia non che sono lei ha dato... dottore, ma la ringrazio, prego. Sì, vabbè, comunque. E di una notizia che ha dato stamattina riguardo la proposta della ministra Bonetti sulla istituzione di una corsia preferenziale per tamponi rapidi per bambini e ragazzi. In realtà la tanto vituperata Regione Lombardia ha già istituito questo servizio a partire da questa settimana. Ci saranno diversi punti tampone per cui docenti e ragazzi potranno rivolgersi a questi punti tampone senza neanche passare al pediatra, lo dico perché sono un pediatra, abbiamo insistito molto perché ottimo. La regione ci desse questa opportunità, per cui appunto quella che è la proposta del ministro Bonetti in Regione Lombardia, questa cosa è già partita, tutto qua. Grazie Sergio, è una buona segnalazione, tra l'altro io che vivo qua a Milano non lo sapevo e lo apprendo con piacere, magari poi ne potremo parlare in futuro con qualche responsabile della Regione Lombardia, però l'estendere a livello nazionale, come diceva Elena Bonetti, questo sistema secondo me potrebbe essere utile per far sì che non si vada a una serie di chiusure di scuole e via dicendo. Paolo da Potenza, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io ho telefonato per dire che secondo me tutti i problemi che ci sono oggi dipendono che non viene rispettata la prima Costituzione. E questo per tutti i problemi. Problemi di inquinamento, problemi di immigrazione, problemi di... Paolo, però guardi, veramente la sentiamo in una maniera atroce, non ascoltabile purtroppo la telefonata, però ci sarà occasione sicuramente, perché poi tra l'altro del Recovery Fund torneremo a parlare lungamente. Solo una breve risposta agli ascoltatori che ci stanno scrivendo in merito a quello che diceva Manuela, il tema della cattolicofobia, dell'assassino dei bianchi, perché non si parla di razzismo. Guardate, non è che si sta sottovalutando il fatto che sia stato ucciso un uomo, che sia stato ucciso un sacerdote, tra l'altro così impegnato nel sociale. Si sta semplicemente dicendo che un tipo di omicidio di quel genere non è qualificabile col razzismo, perché non è fatto per uccidere una persona in quanto bianca o cattolica. È molto semplice la cosa. A quanto pare questa persona, così raccontano le cronache, era in preda ad una specie di delirio, perché pensava che... non che ci fosse stato un ruolo da parte del parroco a negargli a far sì che procedesse la sua procedura di espulsione, e quindi in questo momento di follia l'ha accoltellato e l'ha ucciso. Comunque vedremo, naturalmente, se emergeranno dettagli nei quali quest'uomo diceva voglio ucciderlo in quanto bianco, in quanto cattolico, saremo pronti a ricrederci, ovviamente. GR24, ci risentiamo domani ovviamente alle 6:30. Ciao.